ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. La parete è diventata a tal punto una parte della mia vita che non ci penso per settimane intere. E anche quando ci penso, non mi appare più inquietante di un muro di mattoni o della siepe di un giardino che impediscono di continuare il mio cammino. Cosa poi di tanto particolare? Un oggetto fatto di una materia la cui composizione mi è ignota. Nella mia vita oggetti del genere ce ne sono stati sempre più del necessario. La parete mi ha costretta a iniziare una vita nuova, ma le cose che mi toccano veramente sono rimaste identiche a prima. La nascita, la morte, le stagioni, la crescita e il declino. La parete è una cosa, né viva né morta. In verità non mi riguarda affatto e per questo non la sogno. Un giorno sarò costretta a occuparmene, perché non potrò continuare a vivere qui per sempre, ma fino a quel giorno non voglio più averci a che fare. Da questa mattina sono convinta che non incontrerò mai più un essere umano, a meno che non ce ne stia ancora uno che vive sulle montagne. Se là fuori esistessero ancora degli uomini, avrebbero sorvolato i paraggi con degli aerei da molto tempo. Ho visto che anche le nuvole basse riescono a sorvolare il confine e non portano veleni, altrimenti non sarei più in vita. Perché allora non arrivano gli aeroplani? Avrei dovuto accorgermene molto prima. Non so come mai non ci abbia pensato. Dove sono gli aerei da ricognizione dei vincitori? Non credo mi capiterà mai di vederli. In fondo sono contenta di non aver mai pensato agli aeroplani. Ancora un anno fa questa riflessione mi avrebbe precipitata in una cupa disperazione. Oggi non più. Da qualche settimana i miei occhi sembrano avere qualcosa che non va. Vedo benissimo a distanza, ma nello scrivere le righe spesso si confondono alla vista. Può darsi sia dovuto anche alla luce debole e al fatto che sono costretta a scrivere con una matita dura. Sono sempre andata fiera dei miei occhi, sebbene sia stupido andar fieri di un attributo fisico. Non sono mai riuscita a immaginare qualcosa di peggiore della cecità. Probabilmente sto solo diventando un po' presbite e non ho motivo di preoccuparmi. Presto sarà il mio compleanno. Da quando vivo nel bosco non mi accorgo di invecchiare. Infatti non esiste nessuno che potrebbe farmelo notare. Nessuno mi dice che aspetto ho e io stessa non ci penso mai. Oggi è il 20 dicembre. Scriverò fino a quando iniziano i lavori di primavera. Quest'anno l'estate per me sarà meno faticosa, visto che non mi trasferirò più sull'Alpe. Bella, come nel primo anno, pascolerà nel prato accanto al bosco e io mi risparmierò i lunghi tragitti faticosi. Sul mio calendario il febbraio del primo anno è completamente vuoto. Comunque lo ricordo, anche se in modo generico. Credo che il tempo fosse umido e caldo piuttosto che freddo. L'erba della radura tornava a inverdire dalle radici sotto gli steli gialli dell'autunno. Non soffiava il fön, ma un'aria mite di ponente, in realtà non insolita per il mese di febbraio. Ne ero contenta. La selvaggina trovava dappertutto fogliame ed erba secca e poteva riprendersi un poco. Anche gli uccelli stavano di nuovo bene. Si mantenevano a distanza dalla casa e ciò significava che non avevano più bisogno di me. Solo le cornacchie mi rimasero fedeli fino all'arrivo della primavera. Stavano appollaiate sugli abeti ad aspettare rifiuti. La loro vita si svolgeva secondo regole precise. Calavano nella radura ogni mattina alla stessa ora, per posarsi sugli alberi dopo lunghi volteggi e un concitato gracchiare. Nel pomeriggio avanzato, verso il crepuscolo, si risollevavano descrivendo ampi cerchi e con strida acute volavano via sopra il bosco. Non ho la più pallida idea di dove si trovi il loro ricovero notturno. Le cornacchie conducono una doppia vita eccitante. Col tempo sviluppai una certa simpatia per questi uccelli e non riuscivo a capire come mai, prima, non li potessi vedere. In città si vedono solo sui rifiuti delle discariche, per cui li avevo sempre ritenuti degli animali sporchi e avviliti. Qui, sugli abeti lucenti, sembravano un tratto completamente diversi, facendomi scordare la mia vecchia antipatia. Oggi aspetto tutti i giorni il loro arrivo perché mi indicano l'ora. Perfino Lince si era abituato a loro e li lasciava in pace. Lui, d'altronde, si abituava a tutto ciò che mi stava a cuore. Era una creatura molto adattabile. Solo per la gatta, le cornacchie rimasero una continua fonte di risentimento. Se ne stava seduta sul davanzale, col pelo ritto e i denti scoperti, lo sguardo fisso nella loro direzione. Quando si era infuriata abbastanza a lungo, si sdraiava mugugnando sulla panca, cercando di affogare la stizza nel sonno. Sopra lo chalet, prima, viveva un gufo. Da quando erano arrivate le cornacchie se n'era andato. Non avevo nulla contro il gufo, ma poiché forse aspettavamo dei gattini, mi faceva piacere che le cornacchie lo avessero scacciato. Verso la fine di febbraio lo stato della gatta divenne inequivocabile, si era ingrossata e passava alternativamente dal malumore agli accessi di tenerezza. Lynch osservava sconcertato questa trasformazione. Si fece più prudente solo dopo essersi preso una robusta testata e si allontanò dalla sua amica lunatica. Pareva essersi scordato che tutto questo si era già svolto allo stesso modo in precedenza. Questa volta probabilmente non sarebbe nata una perla, ed era anche meglio così. Naturalmente, con un'ascendenza tanto mista, non si poteva essere certi di nulla. Contro qualsiasi buonsenso cominciavo a rallegrarmi della nuova cucciolata. Quel pensiero mi distraeva e mi occupava la mente. Il mio stato d'animo generalmente migliorava con l'allungarsi delle giornate e l'avvicinarsi della primavera. L'inverno nel bosco è quasi intollerabile, specialmente se non si hanno compagni. Già in febbraio mi trattenevo all'aperto il più a lungo possibile. L'aria mi metteva fame e mi stancava. Ispezionai la mia scorta di patate e mi accorsi di dovermi limitare se volevo farcela fino al raccolto successivo. In nessun caso dovevo intaccare le patate da semina. Probabilmente durante l'estate avrei dovuto nutrirmi quasi esclusivamente di carne e di latte. Quest'anno, tuttavia, potevo ingrandire il campo. Mangiavo le patate con la buccia per via delle vitamine. Ignoro se fosse veramente utile, in ogni caso già il solo pensiero mi rincuorava un po'. Ogni 2 o 3 giorni mi concedevo una mela e nel frattempo mangiavo quelle selvatiche, tanto aspre da non poterle quasi ingoiare. Di quelle ne possedevo a sufficienza per tutto l'inverno. Bella ora dava tanto latte che il vitello non riusciva a succhiarlo tutto e mi rimaneva perfino una piccola eccedenza di burro col quale confezionavo dello strutto. Il rifornimento dei viveri funzionava meglio in inverno che in estate perché la carne si conservava molto più a lungo. Ciò che mi mancava era solo la frutta e la verdura. Ignoravo per quanto tempo il vitello avrebbe dovuto succhiare il latte materno e cercai indicazioni su tutti gli almanacchi, senza però trovarvi una sola parola. Del resto erano scritti per persone che conoscevano gli elementi fondamentali dell'economia rurale. La mia ignoranza talvolta mi rendeva la vita inquieta. Intuivo pericoli ovunque, senza riuscire a individuarli in tempo. Dovevo continuamente aspettarmi brutte sorprese e non potevo fare altro che sopportarle con serenità. Per il momento lasciai che il vitello bevesse quanto voleva. In fondo, tutto dipendeva dal fatto che crescesse presto e robusto. Non avevo idea di quale età dovesse avere un bovino per procreare a sua volta, ma speravo manifestasse abbastanza presto la sua virilità. Mi rendevo conto che il mio progetto era un poco avventuroso, ma non mi restava che sperare nella sua riuscita. Ignoravo quali effetti avrebbe sortito una simile riproduzione tra madre e figlio. Forse in quel caso Bella non avrebbe affatto avuto un vitello, oppure nel suo grembo si sarebbe sviluppata una mostruosità. Nemmeno a questo proposito trovai qualcosa negli almanacchi. Probabilmente non si usava incrociare un vitello con la madre. Poiché non amo vivere brancolando al buio senza un piano prestabilito, mi fu molto difficile conservare la calma. L'impazienza è sempre stata uno dei miei peggiori difetti. Nel bosco comunque ho imparato a domarla almeno in parte. Le patate non crescono più in fretta se mi metto le mani nei capelli e nemmeno il mio torello sarebbe diventato adulto in una notte. Quando poi infine lo fu, mi accadde di desiderare che fosse rimasto eternamente un vitellino paffuto. mi forzava ad affrontare dei problemi che mi complicavano molto la vita. Fui costretta ad aspettare e aspettare. Qui tutto richiede molto tempo, un tempo che non viene inseguito da migliaia di orologi. Nulla preme e incalza. Sono l'unica presenza agitata nel bosco e ancora ne soffro. Marzo riportò il maltempo. Nevicò e tornò a gelare. E durante la notte il bosco si trasformò in uno scintillante paesaggio invernale. Il freddo comunque fu moderato perché a mezzogiorno il sole splendeva già caldo sul pendio e l'acqua gocciolava dal tetto. La selvaggina non correva pericoli. Sul versante soleggiato si trovavano già varie macchie senza neve con erba e fogliame. Quella primavera non trovai altri caprioli morti. Quando splendeva il sole andavo con l'ince nella riserva. Oppure a prendere il fieno nella capanna. Una volta sparai a un capriolo maschio debilitato e lo lasciai gelare. Infine arrivò il disgelo. Piovve e tirò vento per qualche giorno. Non riuscivo a vedere più là della stalla, tanto bassa era calata la nebbia. Vivevo su una piccola isola calda, circondata da un umido mare nebbioso. L'ince cominciò a immalinconirsi e continuava a trottare avanti e indietro tra lo chalet e la radura. Non potevo aiutarlo. Il tempo freddo e umido non mi faceva bene. Non volevo prendermi un raffreddore. Già avvertivo un raschio in gola con una leggera tosse. Ma non successe nulla. E il giorno dopo tutto tornò normale. La cosa peggiore furono dei dolori reumatici in tutte le articolazioni. Le mie dita si gonfiarono, arrossandosi improvvisamente, e riuscivo a piegarle solo con dolore. Leggermente febbricitante, ingoiai le pasticche antireumatiche di Ugo, standomene seduta in casa, irritata, a immaginare che non sarei più riuscita a muovere le dita. La pioggia si trasformò infine in nevischio e poi di nuovo in neve. Continuavo ad avere le dita gonfie e ogni gesto mi faceva male. L'ince, vedendo che ero ammalata, mi colmava di dimostrazioni d'affetto. Una volta queste sue attenzioni mi fecero piangere. E dopo ci trovammo entrambi seduti sulla panca con l'animo oppresso. Le cornacchie stavano appollaiate sui loro abeti aspettando i rifiuti. Sembravano considerarmi una meravigliosa istituzione, una specie di assicurazione sociale, e diventavano di giorno in giorno più pigre. L'11 marzo la gatta balzò dal letto, si piantò davanti all'armadio e chiese insistentemente di entrarvi. Presi un vecchio cencio, lo disposi sul fondo e la gatta vi scivolò sopra. Io intanto badai ai miei lavori e solo la sera, rientrando dalla stalla, mi tornò in mente la gatta e andai a guardare nell'armadio. Era già tutto fatto. Faceva le fusa rumorosamente, leccandomi la mano, tutta contenta. Questa volta i piccoli erano tre, e tutti e tre vivi. Tre gatti tigrati, dal grigio chiaro a quello più scuro, tutti già rileccati e puliti e in cerca di cibo. La gatta si prese appena il tempo di bere per rivolgersi immediatamente alla sua prole. Accostai la porta dell'armadio e scacciai l'ince che aspettava incuriosito. Questa volta la gatta fu meno violenta di quanto fosse stata con Perla. In realtà continuava a soffiare quando vedeva il cane, ma sembrava trattarsi piuttosto d'una formalità. Era strano che l'ince si interessasse tanto a quel lieto evento. Non potendo esternare in altro modo il suo entusiasmo, divorò una doppia porzione di pappa. Avevo notato che qualsiasi emozione psichica gli scatenava generalmente una fame nervosa. Anche la gatta aveva reazioni simili. Dopo essersi irritata con le cornacchie, tornava spesso alla sua ciotola. Quella notte la gatta non venne sul mio letto e io rimasi sveglia, pensando a Perla. La macchia di sangue sul pavimento non voleva sbiadire. Avevo deciso di non coprirla. Dovevo abituarmici e vivere con quella macchia. Ed eccomi di nuovo con tre gatti bambini. Ero determinata a non affezionarmi a quei gattini. Ma era prevedibile che non sarei riuscita a mantenere il mio proposito. Lentamente finirono col prevalere le schiarite. In campagna il tempo Doveva essere sereno da un pezzo, ma in montagna la nebbia spesso stagnava ancora per una settimana prima di dissolversi. Poi la temperatura aumentò rapidamente, diventando quasi estiva, e i fiori e l'erba presero a spuntare ovunque dalla terra umida, quasi dalla sera alla mattina. Gli abeti misero germogli freschi e le ortiche attorno alla concimaia cominciarono a propagarsi allegramente. Il mutamento fu tanto rapido che stentai a crederci. Il mio malessere, infatti, non scomparve subito e durante le prime giornate calde mi sentii più fiacca di quanto lo fossi stata in inverno. Solo le mie dita migliorarono di colpo. I gattini crescevano bene, senza per ora uscire dall'armadio. La vecchia gatta non aveva per loro le cure dedicate a Perla. Di notte le piaceva andarsene per un'oretta. Forse adesso aveva più fiducia in me. Oppure quelle piccole tigri le parevano meno esposte al pericolo. Beveva intere scodelle del latte di Bella, trasformandolo nel suo corpo in un latte adatto ai gattini. Il 20 marzo mi presentò i suoi piccoli. Erano tutti e tre lucidi e grassi, ma nessuno di loro aveva il pelo lungo di Perla. Uno aveva il muso più affilato degli altri e ne dedussi che fosse una femminuccia. È quasi impossibile stabilire il sesso nei gatti così piccoli e inoltre ero anche abbastanza inesperta. Da quel momento la gatta portò i suoi piccoli a giocare nella stanza. Finirono col diventare il divertimento personale di Lince, il quale si comportava come se fosse il padre. Una volta scoperto che era innocuo, presero a importunare allo stesso modo sia lui che la madre. Ogni tanto Lince aveva l'aria di averne abbastanza dei suoi tormentatori e trovava fosse ora di mandarli a letto. Allora li portava delicatamente nell'armadio. Aveva appena finito di trasportarvi l'ultimo che il primo già scorrazzava di nuovo per la stanza. La gatta lo osservava. E se mai vidi un gatto sorridere di gioia maligna, fu proprio lei. Alla fine si alzava e, distribuite un paio di zampate, spingeva la sua prole dentro l'armadio. Li trattava molto più bruscamente di quanto facesse con Perla. Era necessario, del resto. La loro giocosità e la voglia d'attaccar briga erano irrefrenabili. Il signor Cau evidentemente aveva avuto la meglio in tutto e per tutto. Sfrecciavano per casa tutto il giorno e io dovevo continuamente stare attenta a non calpestarli. Non so come fu, ma un giorno, proprio durante una furibonda rincorsa, il più piccolo dei gatti, quello col muso affilato, fu preso dalle convulsioni e morì dopo pochi istanti. Non l'avevo nemmeno notato e non fu in grado di immaginare cosa gli fosse successo. Sembrava completamente illeso. La vecchia gatta accorse subito e si mise a leccarlo amorevolmente tra i lamenti, ma a quel punto era già tutto finito. Sotterrai il gattino accanto a Perla. La vecchia gatta lo cercò per un'ora. Poi si occupò degli altri due, come se un terzo gattino non fosse mai esistito. Nemmeno i fratelli sembrarono accorgersi della sua mancanza. Lince in quel momento era fuori casa. Al suo ritorno mi guardò interdetto, poi andò a controllare nell'armadio. Qualcosa lo distrasse e dimenticò perché ci fosse andato, ma sono certa che si accorse della mancanza di un gattino. Sono l'unico essere che ancora oggi pensa qualche volta a quella bestiolina dal muso affilato. Forse aveva battuto la testa contro il muro, oppure l'epilessia colpiva ancora i gattini. Sono contenta che non abbia sofferto a lungo e di sapere che fine abbia fatto. Naturalmente non l'ho rimpianto quanto Perla, eppure ne ho sentito un poco la mancanza. I due gattini rimasti, come risultò poco a poco, erano effettivamente maschi. Da quando faceva caldo, giocavano anche davanti alla porta, mettendomi in ansia, perché tentavano continuamente di infilarsi tra i cespugli. Iniziarono presto ad acchiappare mosche e coleotteri e fecero la dolorosa conoscenza delle grosse formiche del bosco. All'inizio la madre li sorvegliava attentamente, ma mi accorsi che la cura dei piccoli cominciava a stancarla. Comunque fosse, i ceffoni che distribuiva si fecero sempre più vigorosi. Non potevo biasimarla, quei due erano incredibilmente scatenati e disobbedienti. Li chiamai Tigre e Pantera. Pantera aveva il manto grigio chiaro striato di nero. Tigre, grigio scuro, quasi nero, su fondo rossiccio. Quando avevo tempo, mi piaceva osservare i loro giochi di predatori. E così fu che i due gatti ebbero un nome, mentre il piccolo vitello non ne aveva ancora. Fin lì non mi era venuto in mente nulla, d'altronde anche la vecchia gatta non aveva nome. Naturalmente possedeva un centinaio di nomignoli, ma un nome durevole non lo ebbe mai. Credo pure che non si sarebbe più abituata. Le cornacchie, che avrebbero forse potuto rappresentare un pericolo per i gattini, col sopraggiungere del caldo erano volate via, verso le loro ignote riserve estive, e nemmeno il gufo si faceva più sentire. Talvolta, quando sedevo al sole sulla panca, riflettendo sulle origini di tigre e di pantera, mi illudevo che avessero una probabilità di sopravvivenza. Naturalmente non ero riuscita a restare indifferente. Già incominciavo a preoccuparmi per loro. Speravo che quei due crescessero rapidamente, forti e robusti, imparando tutti i trucchi della loro astuta madre. Ma prima che potessero imparare qualcosa di diverso dall'acchiappar mosche, Pantera sparì nella boscaglia per non far più ritorno. Lince andò a cercarlo, ma del gattino non si trovò traccia. Forse era stato trascinato via da un rapace. Tigre rimase solo. Miagolò a lungo alla ricerca del fratello e, non trovandolo, riprese a giocare con sua madre, con Lince oppure con me. Se nessuno gli dava retta, inseguiva all'impazzata una mosca. Giocava con dei ramoscelli o con certe palline di carta che gli confezionavo con le pagine di un romanzo giallo. Mi addolorava vederlo così solo. Aveva il manto così ben disegnato e rendeva onore al proprio nome. Mai ho conosciuto un gatto più scatenato e vivace. Col tempo divenne il mio gatto, dato che la madre non voleva più saperne di lui e Lince temeva i suoi artigli affilati. Si attaccò dunque a me, trattandomi alternativamente come vice madre o come compagno di baruffe. Mi presi una quantità di graffi finché alla fine lui capì di dover ritrarre gli artigli quando giocava. In casa sbrindellò tutto ciò che poteva raggiungere, affilandosi gli artigli alle gambe del tavolo e ai montanti del letto, ma di questo non mi curavo. Dopotutto non possedevo mobili di valore, se anche ne avessi posseduti, un gatto vivo mi è più prezioso del più bel pezzo di mobilia. Nella mia cronaca, Tigre comparirà più di una volta. Non mi fu concesso tenerlo con me nemmeno per un anno. Ancora adesso stento a credere che una creatura così traboccante di vita sia morta. Ogni tanto mi illudo che sia andato nel bosco dal signor Cao Cao e lì conduca una vita libera e selvaggia. Ma sono solo sogni a occhi aperti. So bene che è morto. Sarebbe sempre tornato da me, almeno di tanto in tanto. Forse in primavera la gatta fuggirà di nuovo nel bosco e avrà altri gattini, chi lo sa. Il grosso gatto del bosco potrebbe essere morto, oppure la gatta, dopo la grave malattia dell'anno scorso, forse non è più in grado di avere altri piccoli. Ma se ci saranno nuovi gattini, tutto questo si ripeterà. Mi proporrò di non curarmene, poi mi affezionerò a loro e infine li perderò. Ci sono ore nelle quali penso con gioia a un futuro, quando non esisterà più nulla a cui poter legare il mio cuore. Sono stanca che alla fine tutto mi venga sempre portato via. Non c'è via d'uscita, perché fin quando nel bosco esisterà una creatura che io possa amare, lo farò. E se un giorno veramente non esistesse più nulla, cesserò di vivere. Se gli uomini fossero stati tutti del mio stampo, non sarebbe mai esistita una parete. E quel vecchio non si troverebbe pietrificato per terra davanti alla sua fontana. Eppure capisco per quale motivo gli altri abbiano sempre avuto il sopravvento. Amare e aver cura di un altro essere è un mestiere molto faticoso e assai più difficile che non uccidere e distruggere. Per allevare un bambino occorrono 20 anni, per ucciderlo 10 secondi. Perfino il torello ci ha messo un anno a diventare grande e robusto e sono bastati pochi colpi d'ascia per spegnerlo. Penso al lungo tempo in cui Bella lo ha pazientemente portato in grembo e lo ha nutrito, alle ore travagliate della sua nascita e ai lunghi mesi nei quali da un vitellino si trasforma in un grosso toro. Doveva splendere il sole per far crescere l'erba che lo avrebbe nutrito. L'acqua doveva sgorgare dalla terra e piovere dal cielo per abbeverarlo. Bisognava spazzolarlo e strigliarlo e rimuovere lo sterco perché la lettiera fosse asciutta. E tutto questo è stato invano. Non riesco a vederci altro se non una depravazione e un disordine orribili. Forse l'uomo che lo ha battuto era folle, ma la sua stessa follia lo ha tradito. Il desiderio segreto di uccidere doveva dormire in lui da sempre. Sono perfino incline a compiangerlo perché era fatto così. Eppure continuerei a tentare di sopprimerlo. Non potrei tollerare che un essere del genere possa continuare a uccidere e distruggere. Non credo nel bosco viva ancora un uomo del suo stampo, ma sono diventata diffidente come la mia gatta. Il mio fucile appeso al muro è sempre carico e non mi allontano di un passo senza il mio affilato coltello da caccia. Ho riflettuto molto su queste cose e forse adesso arrivo perfino a capire gli assassini. Il loro odio per tutto ciò che può generare nuova vita deve essere mostruoso. Lo capisco, ma quanto a me devo difendermi da loro. Non esiste più nessuno che mi protegga o lavori per me, perché io possa abbandonarmi indisturbata ai miei pensieri. Poiché il tempo in aprile si manteneva relativamente bello, decisi di concimare il campo delle patate. La concimaia era cresciuta, così colmai due sacchi e li trascinai su dei rami di faggio fino al campo, sparsi il letame nei solchi ricoprendoli di terra. Concimai anche il giardinetto dei fagioli. Poi fu il momento di andare a prendere il fieno nella gola e poi mancò la legna e così trascorsi una settimana a segare e spaccare. Ero affaticata ma contenta che il lavoro fosse ripreso e le giornate incominciassero ad allungarsi. Il problema del trasferimento sull'Alpe mi occupava ogni giorno di più. L'impresa mi sembrava terribilmente faticosa, anche se mi portavo dietro solo l'indispensabile, accontentandomi di accamparmi in modo molto primitivo. Inoltre mi preoccupavo per i gatti. Ho sempre sentito dire che sono più attaccati alla casa che a una persona. Volevo a tutti i costi portarli con me, ma l'impresa poteva anche finir male. Più ci riflettevo e più le difficoltà mi apparivano insormontabili. E non dovevo scordare il prato vicino al ruscello, il campo delle patate. Andava tagliato il fieno e questo significava un cammino di 7 ore ogni giorno più il relativo lavoro. Avrei dovuto rimandare all'autunno il lavoro della legna e per tutta l'estate non ci sarebbero state trote. Mentre mi arrovellavo convincendomi che il progetto era irrealizzabile, sapevo d'essere già ben decisa a salire sull'Alpe. Era utile per Bella e per il toro. Dovevo riuscire a tutti i costi ad affrontare il lavoro. Troppe cose dipendevano dalla prosperità dei due animali perché potessi avere dei riguardi per me stessa. Probabilmente il prato del bosco non sarebbe bastato ai due bovini e il fieno di quello vicino al ruscello dovevo conservarlo per l'inverno. Appena mi resi conto di avere in realtà deciso il trasferimento già da tempo, cioè da quando avevo visto per la prima volta i verdi pascoli dell'Alpe, mi tranquillizzai, sia pure con una leggera oppressione. Volevo restare fin quando avessi terminato di piantare le patate. Nel frattempo tentare anche di accatastare una piccola scorta di legna. Il tempo restò bello, tuttavia non osai piantare le patate. Un'ondata di freddo poteva sempre tornare. Decisi dunque per il lavoro della legna. Lavoravo lentamente tutti i giorni un poco, accatastandola tutto attorno alla casa. E infine venne una domenica in cui sbrigai solo il lavoro nella stalla e passai il resto del tempo a dormire. Ero talmente affaticata da credere che non sarei più riuscita ad alzarmi. Il lunedì però tornai alla catasta riprendendo a trascinare la legna. Attorno a me sbocciava la primavera e io vedevo solo legna. Il cumulo giallo della segatura cresceva di giorno in giorno. La resina mi impiastricciava le mani, le schegge mi foravano la pelle, le spalle mi facevano male. Ma ero come ossessionata dal desiderio di tagliare la maggior quantità di legna possibile. Mi dava una sensazione di sicurezza. Ero troppo stanca per avere fame e accudivo le mie bestie come un automa. In realtà vivevo solo di latte, mai prima ne avevo bevuto tanto. Poi tutto a un tratto mi resi conto di dover smettere. Non mi restavano altre forze. Thank you.